Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Draghi alla giornata mondiale del risparmio insiste, disoccupazione all'11% e Tremonti condivide i dati del governatore di Banca Italia. I racconti di Rubi, Emilio Fede, forse l'ho vista dal Premier, tutta una bufala invece secondo la Santanchè. Il patto di stabilità è l'asse franco-tedesco al Consiglio europeo di oggi. Si apre il sipario sulla festa del cinema di Roma, ma con Italia al settore, dicono registi e attori, c'è poco da festeggiare. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura alla giornata mondiale del risparmio che si sta tenendo a Roma, ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, sottolinea la centralità delle regole per la gestione della crisi e difende l'operato del governo che dice ha fatto la migliore riforma delle pensioni in Europa, quasi concluso il federalismo fiscale, potenziato gli ammortizzatori sociali, così il ministro Tremonti, il quale aggiunge che la politica economica del governo non è stata solo di rigore sui conti, ma mirata alla coesione sociale. Ma sentiamo un passaggio di Tremonti sull'Europa. Abbiamo tutti chiaro, l'Europa è un continente che produce più debito che ricchezza, più deficit che prodotto interno lordo. E così non si può continuare. Finita l'età coloniale anche per l'Europa il colpo di gong della storia marca e deve modificare una traiettoria. Ripresa mondiale a rischio e prospettive di crescita in Italia che per quest'anno e per il prossimo non si discostano molto dall'1%, è stato l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che è tornato a rimarcare la difficile situazione del mercato del lavoro. Sentiamolo. Per valutare più compiutamente la situazione del mercato del lavoro, numerosi organismi statistici nazionali e internazionali utilizzano anche altre misure di sottoutilizzo della forza lavoro. Vengono conteggiati assieme ai disoccupati i lavoratori assistiti da strumenti quali la CIG, quelli che sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano più attivamente un impiego perché disperano di trovarne uno. Si calcola per l'Italia un tasso di sottoutilizzo superiore all'11% delle persone potenzialmente occupabili, come in Francia, più che nel Regno Unito e in Germania. E su questo il commento del ministro dell'economia Tremonti: sono dati assolutamente condivisibili, ha detto, che risolvono un equivoco. In generale è un quadro a tinte fosche quello tracciato da Draghi sulla situazione economica italiana, con consumi che ristagnano perché i redditi delle famiglie non progrediscono e vi è una diffusa incertezza sul futuro. Qui si è parlato anche il presidente della Bimus, il quale ha stimato in 38 miliardi di euro il costo per le banche tra il 2008 e il 2010. E da Roma per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. A proposito di risparmi, in questo caso della pubblica amministrazione, il ministro Renato Brunetta ha annunciato che per effetto del blocco del turnover, contratti di lavoro flessibile e collocamento a riposo, complessivamente fra il 2008 e il 2013 si può prevedere una riduzione dell'occupazione di oltre 300.000 unità, pari ad un calo dell'8,4%. E voltiamo pagina, siamo alle dichiarazioni di Rubi, la ragazza marocchina minorenne che parla di cene e incontri a casa del Premier. Il caso Rubi irrompe sulle prime pagine dei quotidiani, tra smentite e mezze ammissioni da parte dei protagonisti, mentre è al vaglio della Procura di Milano. Rubi è una ragazza di origine marocchina, minorenne all'epoca dei fatti. Parla di incontri con Silvio Berlusconi nella villa di Arcore e di festini a sfondo erotico. Secondo i legali del Cavaliere, si tratta di invenzioni e uno dei presunti indagati per favoreggiamento alla prostituzione, il direttore del TG4 Emilio Fede, puntualizza: «Forse ho visto Rubi a cena da Berlusconi, ma non è mai accaduto niente di trasgressivo». E poi, aggiunge Fede, «non so che cosa sia il bunga bunga». Così viene infatti chiamato da Rubi il rituale del dopo cena. Anche Daniela Santanchè è stata indicata quale commensale ad Arcore, ma il sottosegretario smentisce tutto ai microfoni di Radio 24. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo né in Italia né nel resto del mondo, non mi sono mai seduto a un tavolo né di un bar né di un ristorante né di una casa privata, per cui voglio dire, se tanto mi dà tanto, insomma, non vorrei che tutto fosse una bufala. Fabio Bonanni da Radio Cor per Radio 24, il 324 ore, Roma. E siamo al dibattito sulla giustizia, ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati e con Elisabetta Fiorito. È sempre il lodo Alfano, Piero, alla fonte di discussioni politiche all'interno della maggioranza, lapidario il commento del capogruppo di Futuro e Libertà Montecitorio, Italo Bocchino: ho l'impressione che finirà su un binario morto. Sono sicuro che si toglierà la possibilità di reiterare lo scudo, ma alla fine il lodo Alfano non andrà da nessuna parte. Intanto il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Carlo Vizzini, spiega che il PDL non ha nessuna premura, anzi che il lodo Alfano potrebbe essere pronto solo nella prossima legislatura e a quel punto si potrebbe estendere il legittimo impedimento fino alla fine di questa. Per Fabrizio Cicchitto, invece, capogruppo PDL alla Camera, il lodo è necessario per lo straripante uso della giustizia, anche se ammette oggi il confronto parlamentare non è ancora concluso. Infine l'opposizione: per l'Italia dei Valori il lodo Alfano sarà il Waterloo del centro-destra. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Il processo per il sequestro di Abu Omar, chiesti 12 anni di reclusione a Milano per l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari e 10 anni per l'ex numero 2 del servizio segreto Marco Mancini. E dubbi sulle parole del pentito Spatuzza e sulla ricostruzione dell'attentato a Paolo Borsellino. Il ritorno di Gaspare Spatuzza, l'ex killer di Brancaccio, oggi pentito, riapre scenari inquietanti della nostra storia recente. Ieri Spatuzza è stato chiamato dai magistrati di Caltanissetta, che indagano sulla strage di Via D'Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, per riscontrare una parte delle cose che lui stesso aveva raccontato nei mesi scorsi. In particolare la vicenda della presenza nel garage in cui fu preparata l'autobomba destinata a Borsellino di un uomo dei servizi segreti, non un uomo di Cosa Nostra. Ora, sulla base del confronto avvenuto ieri a Caltanissetta, c'è la possibilità che quell'uomo sia Lorenzo Narracci, attualmente in servizio alla ISI, già al SISDE. Non c'è la certezza, hanno detto i magistrati nisseni, che sono coordinati dal procuratore Sergio Lari, ma è pur vero che la presenza di un uomo dei servizi in quel garage sembra confermare quanto detto da Totò Riina, il quale, dopo aver letto un articolo del Sole 24 Ore in cui si raccontava del possibile coinvolgimento nella strage di uomini appartenenti all'Anello della Repubblica, un servizio segreto parallelo raccontato in un libro dalla giornalista Stefania Limiti, disse: «Id foru, loro sono stati», cercando di allontanare da sé l'ombra di quella strage, ma facendo una confessione implicita che è già entrata agli atti di un altro procedimento avviato a Palermo dalla Procura Antimafia. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E restiamo in Sicilia. La salma del bandito Salvatore Giuliano viene riesumata a 60 anni dalla morte. La procura del capoluogo siciliano ha riaperto l'inchiesta a carico di ignoti per omicidio e sostituzione di cadavere. L'esame svelerà così l'identità, da molti messa in dubbio, dell'uomo sepolto come Salvatore Giuliano. Dubbi sollevati anche dallo storico di mafia Giuseppe Casarrubea, fautore della riesumazione. Ecco perché al microfono di Adriana Fracchia. Il primo motivo è che noi alcuni anni fa, avendo esaminato le fotografie del perito legale Alberto Bellocco, abbiamo avuto la conferma che il cadavere giacente nel cortile di Castelvetrano e il cadavere invece riposto all'obitorio dello stesso comune erano persone verosimilmente diverse. Il secondo elemento è che non ci furono delle vere e proprie autopsie del morto. Terzo motivo è che i familiari non riconobbero il loro congiunto in quanto non lo videro in viso. Altro motivo è il fatto che, come si usa in Sicilia, di solito il morto nelle ultime 24 ore viene consegnato alla famiglia perché sia curato e poi ci sarebbe stata la veglia funebre notturna. Questa operazione non ci fu. I giudici hanno avuto validi elementi per dare credito a quello che noi avevamo sollevato in termini di ipotesi. La Commissione europea ha deciso di rinviare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia europea per la mancata applicazione di una sentenza del 2004 riguardante 3 discariche nei pressi di Milano. Bruxelles intende quindi chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le discariche, secondo l'esecutivo europeo, contengono infatti rifiuti pericolosi e costituiscono una minaccia per l'aria e le acque locali. Ed ora andiamo in un'altra discarica, anzi in un termovalorizzatore, quello di Acerra. Questa mattina, sopralluogo di Berlusconi e del capo della Protezione Civile Bertolaso. In diretta Paolo Picone. Sì, buongiorno. Il Premier Silvio Berlusconi è arrivato alle 11.30 in punto ed ha effettuato prima un breve sopralluogo con il capo della Protezione Civile Bertolaso, il presidente della Giunta regionale della Campania Caldore, tutti i prefetti della Campania e presidenti delle province della regione all'interno del termovalorizzatore di Acerra. Poi è iniziata una riunione che è tuttora in corso da circa un'ora. Stiamo infatti aspettando che a conclusione di questo summit il presidente Berlusconi venga in conferenza stampa a fare delle dichiarazioni. Per il momento da Acerra è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Picone ed ora parliamo di cinema con la nostra Marta Cagnola. Speciale Festival del Cinema di Roma. Buongiorno, prima giornata del Festival Internazionale del Film di Roma. L'avvio con Eva Mendes e Keira Knightley, ma soprattutto con la protesta confermata dei 100 autori, insieme alle rappresentanze di tutte le associazioni dell'audiovisivo italiano, riunite anche questa mattina in presidio alla Casa del Cinema. Ieri l'incontro del governo con Anica e Agis, con le rassicurazioni da parte del ministro dei beni culturali Sandro Bondi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Così il presidente dell'Agis, Paolo Protti. Abbiamo avuto la formalizzazione da parte del dottor Letta a nome del governo italiano di questo impegno comune, quindi di tutto il governo, a fare in modo che ci siano due obiettivi da raggiungere: uno è il reintegro del FUS previsto attualmente dal patto di stabilità a 262 milioni per il prossimo triennio, dal 2011 e anni successivi, riportarlo a livello del 2010, cioè appena oltre i 400 milioni. Quindi un reintegro sicuramente importante, che va a cogliere quello che è il minimo livello di dignità per mantenere un sostegno efficace alle imprese dello spettacolo. Il governo, per governare, deve fare delle scelte. A questo punto la scelta che noi chiediamo è che ci dia garanzia, non soltanto impegno, al mantenimento di quella soglia minima che si chiama FUS 2010. Ma dicevamo, le rassicurazioni non sono state sufficienti e la protesta ci sarà. Appuntamento alle 17.30 al Palazzetto dello Sport, proprio in Viale de Coubertin, vicino all'auditorium. Quindi l'occupazione del tappeto rosso durante la cerimonia di inaugurazione del festival. I 100 autori questa mattina hanno reso noto che la risposta della direzione del festival era stata l'offerta, definita risibile, di consentire l'accesso al tappeto a 100 persone munite di biglietto. I 100 autori poi rincarano la dose e lo definiscono un atto offensivo che, se confermato, metterà di fatto il Festival di Roma contro l'intero mondo del cinema e dell'audiovisivo italiano. Insomma, i toni sono alti anche nei confronti dello stesso festival. Vedremo quindi cosa succederà questo pomeriggio. L'appuntamento con il Festival Internazionale del Film di Roma è nei nostri giornali radio e nello speciale nel giornale radio delle 21. E da Roma è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della giornata mondiale del risparmio. Draghi insiste, disoccupazione all'11% e Tremonti condivide i dati del governatore di Banca Italia. Abbiamo poi parlato dei racconti di Ruby. Emilio Fede dice: forse l'ho vista dal Premier, tutta una bufala invece, secondo la Santanchè. E si apre il sipario sulla festa del cinema di Roma, ma con Italia al settore, dicono registi e attori, c'è poco da festeggiare. E ripartiamo dal Consiglio europeo che prende il via oggi. Molti temi sul tavolo, ce li racconta da Bruxelles Sergio Nava. Sì, buongiorno da Bruxelles, dove mancano poco più di 3 ore all'inizio del vertice dei 27 leader comunitari, uno snodo cruciale per decidere il futuro della riforma del patto di stabilità. Proprio questa mattina il governatore di Banca Italia Mario Draghi è intervenuto sull'argomento chiedendo regole quasi automatiche per il patto riformato. I paesi con le istituzioni più deboli non riescono da soli a risolvere i loro problemi di politica economica, ha affermato Draghi. 3 nodi da sciogliere tra oggi e domani. Il più controverso riguarda le modifiche del Trattato di Lisbona con Francia e Germania, che vogliono cambiarlo per introdurre sanzioni, anche politiche, contro i paesi con i conti in disordine. Su questo però Parigi e Berlino hanno contro le istituzioni europee e la maggioranza dei paesi membri. Poi occorrerà definire e quantificare la stretta sul debito, un punto molto sensibile per l'Italia. Se passassero le proposte della Commissione, il nostro paese rischia di dover tagliare 40 miliardi di debito all'anno, una cifra enorme. Infine, le sanzioni vere e proprie per i paesi che violano il patto saranno pratiche. I paesi membri potranno dire la loro. Intanto, a quanto è dato sapere, il Premier Berlusconi dovrebbe arrivare in ritardo al prevertice pomeridiano dei popolari europei a Meise, appena fuori Bruxelles, rischiando così di mancare un appuntamento. appuntamento dove si metteranno appunto le strategie negoziali in vista del summit. E infine il commissario dell'industria Antonio Tajani ha presentato un documento sulla politica industriale europea da qui al 2020. L'obiettivo è creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Gli abbiamo chiesto quale peso avrà l'innovazione all'interno di questa politica. Sentiamo Tajani. Innovazione è protagonista della politica industriale, non c'è competitività, non c'è politica industriale se non c'è innovazione. Abbiamo presentato alcune iniziative, penso ai venture capital, penso ai project bond, che in qualche modo dovrebbero aiutare le piccole e medie imprese soprattutto a poter trasformarsi sempre più in imprese innovative. E grazie al nostro Sergio Nava. Restiamo su temi europei, perché i fondi europei destinati alla Torino-Lione diminuiscono. Ieri la Commissione europea ha messo nero su bianco un taglio di 9 e 18 milioni di euro e sono in arrivo ben più consistenti sforbiciate se entro i primi tre mesi del 2011 non saranno avviati i lavori per la realizzazione del tunnel esplorativo in località La Maddalena, proprio quello contestato dai No TAV. Cristina Carpinelli ha chiesto a Mario Virano se si riuscirà a far partire questi lavori. È una questione molto delicata, un bel campanello d'allarme, ma che non inficia alcun processo se siamo in grado di rispettare gli impegni e di procedere. E io credo che dovrà essere fatta un'operazione chiarezza. Ci sono delle amministrazioni comunali e in particolare l'attuale dirigenza della Comunità Montana che offre una sponda acritica alle frange più estreme e non prende le distanze dagli annunci più bellicosi, no? Questo è un problema per le forze politiche che sono presenti in questa maggioranza e bisogna arrivare il più rapidamente possibile a dei chiarimenti su vari fronti, perché ci sono a differenza del 2005 ci sono dei comuni che sono favorevoli e che collaborano e ci sono dei comuni che sono contrari. È una situazione a macchia di leopardo complicata, ma è diversa da quella che c'era nel 2005, dove c'era praticamente un fronte unico generale. Togliere la tutela legale alla trasmissione Report, ne ha parlato questa mattina Alessandro Milan con la conduttrice Milena Gabanelli. Sono voci che girano, però nessuno mi ha detto direttamente nulla. Allora, io sto lavorando con un gruppo di autori che sono freelance, che lavorano sapendo quali sono le condizioni, gliele cambi in corso e non gliele dici, non so, penso che il passo successivo è una martellata in un occhio. Ed ora il nostro appuntamento con l'Italia, che prova a rialzare la testa. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Stiamo osservando una crescita più 70%. Riccardo Self è amministratore delegato e direttore generale di Once, azienda di Udine. Ci occupiamo di produzione di prototipi piccole serie, materiale plastico e metallico. Per Once il 2009 non è stato un anno facile. È stato un anno critico, con un calo di fatturati e calo di margini, meno 30-35%. La svolta è arrivata all'inizio di quest'anno, quando l'azienda, che fattura 2 milioni di euro e ha 15 dipendenti, è riuscita a recuperare totalmente il calo di fatturato. La chiave di svolta è essere riusciti a fare rete con altre piccole aziende. I punti su cui abbiamo lavorato sono stati un'analisi più corretta del mercato, un rafforzamento della nostra struttura commerciale e una definizione più corretta del prodotto servizio e riduzione assoluta degli sprechi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quella che state sentendo è la voce del presidente americano Barack Obama, ospite del programma satirico The Daily Show di Jon Stewart. Il presidente ha invitato gli americani ad andare a votare il prossimo 2 novembre, giorno delle elezioni di midterm. Yes, we can, but, ha attaccato il conduttore. E Obama, impassibile, sì, possiamo, ma non accadrà tutto nello spazio di una notte. Fra i fattori che minano la famiglia ci sono, secondo la CEI, le convivenze di fatto, i divorzi, il fisco che disincentiva la procreazione e la convivenza fra gay. I vescovi lo scrivono negli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020. Fra i giovani, dice la CEI, è diffuso un disagio per una vita priva di valori. La cronaca italiana: una ragazza peruviana di 22 anni racconta di essere stata aggredita e violentata a ridosso della stazione della metropolitana Anagnina a Roma mentre rientrava a casa domenica sera. Si tratta della stessa fermata del metro in cui il 9 ottobre un giovane ha dato un pugno all'infermiera romena Maricica, che morì, come ricorderete, qualche giorno dopo. E ancora nel carcere di San Vittore, Marinella Colombo, la donna milanese fuggita dalla Germania con i suoi due figli per non lasciarli in affidamento al padre, come invece aveva deciso il tribunale tedesco. Nei suoi confronti è stato messo un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria tedesca. Buone notizie per gli animali e per quanti di noi li ama. Ratificata dalla Camera la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, l'obiettivo è quello di stroncare il traffico illecito di cani e gatti dall'est. Un mercato, pensate, da 300 milioni di euro l'anno. Previsto anche un inasprimento delle sanzioni, sia amministrative che penali. Il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, al microfono di Ambra Notari. Una vergogna, un'illegalità diffusa di questi anni, giocata sulla pelle degli animali e giocata sulla pelle delle famiglie che in maniera ignara acquistano questi animali, che tra l'altro in maniera clandestina varcano il confine italiano, vengono portati in condizioni di trasporto inenarrabili per poi tra l'altro subire molto spesso malattie, morti improvvise, quindi un costo economico, sociale, morale sulla quale finalmente questa norma interverrà in maniera efficace. Questo traffico viene affrontato nell'illegalità, ma sempre, come testimoniano queste indagini, con la copertura di circuiti legali o purtroppo nell'ambito veterinario o quelli del commercio di normali negozi che sono coinvolti appunto in questo traffico. Le previsioni contro il traffico dei cuccioli dall'est sono state inserite su nostra proposta e sono un'aggiunta alla Convenzione europea che distingue l'Italia. E siamo allo sport. Stanotte grande prestazione dei tre italiani nell'NBA. Dario Ricci. Sì, buongiorno, ottima partenza degli italiani nella NBA, Gallinari batte Bargnani, Bellinelli vince con la sua New Orleans. Partiamo proprio dal derby tra Toronto Raptors e New York Knicks, vincono i Knicks 98-93, Bargnani, Raptor fa 22 punti con 6 rimbalzi e 2 stoppate, ma vincono appunto i New York di Gallinari, per lui 12 punti e 6 rimbalzi al referto. E allora sentiamo proprio la soddisfazione di Danilo Gallinari. Una vittoria importantissima, perché l'esordio fuori casa era importante per noi, per il programma di partite che abbiamo, era importantissimo vincere subito questa. E ora spazio ad Andrea Bargnani. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo fatto diversi errori, io per primo al tiro. Al momento abbiamo giocato molto bene, dobbiamo allungare quei momenti. Vittoria per i New Orleans Hornets di Marco Bellinelli, 95-91 sui Milwaukee Bucks, ottima la prova dell'azzurro, 18 punti con 6 rimbalzi e 2 assist in 35 minuti, e per il bolognese i margini di miglioramento degli Hornets sono ancora parecchi, sentiamolo nel dopogara. Ci stiamo allenando bene, lavoriamo bene tutti assieme, quindi secondo me saremo molto meglio di quelli che ci siamo visti oggi. E per il momento è tutto. Ed è tutto anche per GR24, il prossimo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.